e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Benvenuti. Bentornati. Eccoci qua, siamo pronti. Ci allora, stavate aspettando? Sì, certo. Perché qua gli esami non finiscono mai, cara mia. Anche se la scuola è finita, vabbè, a parte i ragazzi che stanno sostenendo la maturità, ma noi continuiamo ad andare avanti con la nostra scuola di risparmio. Cosa hai preparato per oggi? Perché giovedì si va a scuola. Si va a scuola, oggi focus sulle materie prime. Ritorniamo sul petrolio, ma anche sull'oro, ma anche sul caffè e sugli altri... sulle altre commodities, e poi farò un piccolo focus anche sui mercati emergenti. Sono temi che tocchiamo sempre trasversalmente, invece oggi parto proprio da qua. Sai che vale la regola, tema anticipato, ascoltatore catturato? Dite la vostra, 800 24 00 24, sì, ti è piaciuta? Perché a scuola come si va? Ordinati, puliti e pettinati. Capelli sono una pagina senza quadretti, un profumo senza bottiglia. Beh, in teoria ne potremmo fare anche a meno, ne potremmo essere completamente privi senza che il nostro organismo ne riceva un danno fisiologico. Questo in teoria, perché sappiamo bene che i capelli, pur non avendo alcuna funzione sul piano biologico, sono molto importanti su quello psicologico. Sono quasi, lasciatemelo dire, un po' una protesi di sicurezza, Deborah. Ah. Perché anche noi, dai, ci giochiamo spesso. Quando veniamo, guarda che capelli ho, guarda. Mamma mia. Però alla fine ci piacciamo. Io la mattina mi alzo e mi viene sempre il coccolone davanti allo specchio. Ogni mattina c'è la congiatura diversa. Comunque, chi ne ha pochi si cruccia. Chi le ha, fa tutto per mantenerli belli, forti e sani. Voi che ne dite? Che rapporto avete con i vostri capelli? E soprattutto quanto li ritenete importanti per la vostra immagine? Vi rappresentano? Vi valorizzano? O invece vi penalizzano? Se ci state seguendo in diretta Facebook, potete farlo, anzi fatelo e scrivete. Per noi è molto importante, ci piace che voi entriate con il vostro occhio dentro la nostra casa. Potete vedere che qui c'è un uomo. Dentro il nostro salone stamattina, certo. Salone di bellezza. È un uomo che i capelli li conosce bene, sono la sua passione. E allora buongiorno a Luca Veltri. Ciao Nicolette, ciao Deborah, grazie ciao, dell'invito, benvenuto. Ciao a tutti. Allora, da quanto tempo maneggi spazzole, forbici e pettini? Tu sei il cuore di Anadema. Io sono il cuore di Anadema e è tanto tempo. Guarda, ad aprile di quest'anno ho fatto 30 anni di carriera. E quando no? Hai cominciato? A 2 anni? Ho cominciato a 15, come quasi tutti, un tempo si cominciava a fare questo mestiere. Sì. Allora, sono tanti anni che maneggio capelli e che sto con le persone, soprattutto con le donne. Questo mi ha aiutato moltissimo nella mia formazione. Anzi, a me piace sempre scherzare su questa cosa dicendo che io mi sono formato con le donne, per cui sono un femminista convinto, no? Mia moglie è felicissima di questo, per cui insomma sono... Bravo, già ci piace, vero? Sono tanti anni che... Approccio vincente. È l'uomo giusto nel posto giusto. Tra l'altro un uomo che può catturare anche l'attenzione di Deborah, perché il lavoro di parrucchiere, Luca ha detto, si inizia da giovani e poi nel tempo, in questi ultimi tempi, è cambiato in modo... direi abbastanza marcato, tanto che sempre più il salone del parrucchiere è qualche cosa di altro rispetto a quello che ci immaginavamo, no? Di cui abbiamo memoria, sai, i caschi con le signore sotto quei bigodini che avevano anche, no? il loro fascino. Sì, ma intanto da noi i caschi non esistono, sono banditi, no? Sì. Sono banditi perché non facciamo quel tipo di lavoro. E che è bellissimo, meraviglioso, ma non si usa più moltissimo. Detto ciò, sì, l'ambiente, lo spazio del parrucchiere è cambiato moltissimo, sta cambiando moltissimo, è cambiato molto il ruolo sociale e imprenditoriale del parrucchiere, per cui professionalità altissima. Sì, assolutamente, chiaramente per chi ha voglia di adeguarsi, insomma, voglia di fare ricerca, ed è molto affascinante perché ti permette poi, di fatto in un certo modo, di accedere a fasce, a sfere sociali e professionali molto molto interessanti. Noi sono tantissimi anni che abbiamo anche un'agenzia di truccatori e parrucchieri e lavoriamo abitualmente nello showbiz, una parolaccia, ma è così. Perché dovete alzare un po' l'asticella con questa grande concorrenza servizi che sono più alla portata di tutti, sono molto comodi, si spende poco all'ultimo momento, però in effetti credo che anche questo abbia in qualche modo modificato il vostro lavoro. Certo. La cosa bella è che tu, quando riponi spazzole e pennelle, impugni la penna per scrivere. Tu sei uno scrittore di storie ambientate a Milano. Io ho letto Hotel Flora, sono 5 storie, io ne ho lette le 2 e mezzo perché poi sono finite nello scatolone come il resto della mia casa, sì. Quindi non so, le prime 2 mi sono piaciute, ma mi chiedevo quanto tu proprio tra ispirazione, mi piace questo, parrucchiere scrittore, è curioso, ma tu hai un bel laboratorio, un vivaio da cui attingere idee che sono, immagino, le tue clienti. Allora, sicuramente le mie clienti, poi essendo Anadema, il mio salone, un laboratorio, una fucina di idee, di creatività, nel quale organizzo spessissimo mostre di fotografie, sculture, quadri, insomma, pitture in genere, comunicazione, io amo chiamarla comunicazione. Anadema è un luogo dove si fa comunicazione e qui, questo da tantissimi anni, e questo mi permette, insieme al rapporto molto empatico che si crea con la clientela, donne e anche uomini, di avere di raccogliere tantissime testimonianze dirette o indirette, consapevoli e spesso inconsapevoli, su questo aspetto meraviglioso che è la nostra esistenza, no? Soprattutto l'aspetto umano, emozionale. E quindi attraverso infiniti processi che non conosco bene, ma che di elaborazione, poi nascono i soggetti per le mie storie. Allora, oggi tu ci impresterai il tuo occhio clinico e consigli agli amici e alle amiche che ci stanno seguendo di approfittare di questa opportunità, diciamo un parrucchiere per amico, per chiedere tutte le cose che vi saltano in mente, in testa, per qualunque problema, e soprattutto per prepararvi magari a quell'incontro che è sempre un po' speciale con il parrucchiere. Io amo dire che il parrucchiere è un po' come il ginecologo per le donne, bisogna avere fiducia e feeling, e allora diventa anche un po' psicologo, perché tu vedi cose. Quando noi andiamo dal parrucchiere ci aspettiamo che il parrucchiere ci trasformi oppure capisca, ma noi non abbiamo sempre voglia di raccontarglielo, quello che no, ci farebbe bene, perché magari vogliamo tagliarci i capelli, tingerli, cambiare un pochino, e non sempre però usciamo soddisfatte, quindi questo è già un... Sì. Bisogna sapersi fidare e affidare, ma nelle mani giuste. Nelle mani giuste, sì. Poi un aspetto molto importante che alle volte si pensa, no, quando ci si reca dal proprio parrucchiere di fiducia, si pensa di voler fare un cambiamento, che sia sul colore, sul taglio, quando alle volte non è così, anzi spesso non è così, e allora ci vuole, a mio giudizio, un buon professionista molto sensibile che sia in grado di capire che in realtà questa spinta nasce dalla volontà di cambiare qualcos'altro della propria vita, ma non l'aspetto esteriore, l'aspetto estetico, perché poi quando si azzarda un cambiamento che verbalmente viene richiesto ma in realtà non è sentito, poi dopo sono guai. Infatti, sono guai. No, diciamo, che ti ricordi, quando una donna taglia tutti i capelli. Sì, e quando compro un rossetto nuovo. 800 24 00 24. Noi abbiamo anche un altro occhio clinico, quello del nostro specialista del mese della salute Vien Parlando, l'iniziativa che Cuore Denari porta avanti con gli specialisti di Humanitas. E infatti abbiamo in linea con noi il professor Antonio Costanzo, a cui avete scritto in questo mese per avere consigli su pelle, unghie e capelli, ed è il responsabile infatti della dermatologia dell'Humanitas Immuno Center e docente all'Humanitas University. Ma per noi è il nostro professor Costanzo. Buongiorno a lei e benvenuto. Buongiorno. Professore, lo stato dei nostri capelli dice molto anche sul nostro stato di salute generale. Li vogliamo folti e belli, però dobbiamo anche fare di necessità virtù, perché diciamola tutta, professor Costanzo, madre natura con alcuni è più generosa che altri. Ecco, rassegniamoci. Osservare i capelli e soprattutto la consistenza dei capelli aiuta a capire alcune cose, specie nella donna, perché la donna è più sensibile a, per esempio, cambiamenti nell'alimentazione, che possono compromettere la bellezza del capello. Ad esempio ci sono... Senta, professore, io faccio così, la fermo perché noi andiamo a sentire il traffico. Nel frattempo, perché noi la sentiamo come se lei fosse dentro una caverna, dato che immagino che lei... Sotto il casco del parrucchiere. Sotto il casco del parrucchiere, che non ha i boccoli però il professor Costanzo. Ma magari chissà, magari, vuole, che ne sai. Magari Luca Veltri riuscirebbe a fare questo miracolo. Professore, cambiamo linea, ma voi non cambiate frequenza, noi restiamo qua con le nostre chiome, anche chi le chiome non le ha rasate, le ha perse ed è felice, le vuole tingere, noi restiamo, il nostro numero verde è a vostra disposizione, così come i messaggi WhatsApp, a tra poco. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta... Cuore e denari. Come porti i capelli bella bionda, tu li Scusi. Porti alla bella Maria. Qua chiacchierano di capelli, Deborah certo. racconta dei suoi, a Luca Veltri potete farlo anche voi, e le punte, le doppie punte, il colore. 800 24 00 24. L'abbiamo recuperato il nostro Costanzo? Buongiorno, ribuongiorno professore. Noi vogliamo stare con lei vicini vicini perché vogliamo capire che cosa possiamo, quanto ad esempio è dipende un po' da quello da madre natura. Ci sono sicuramente delle persone che nascono con delle chiome belle folti e altre invece che hanno capelli non particolarmente fluenti, ma anche che cosa possiamo fare noi, che cosa ci dice l'aspetto del nostro capello, soprattutto che cosa dice ad un dermatologo. E inizierei con un segnale che preoccupa sempre, che è la caduta. Considerando che è pur vero che i capelli nascono, crescono, muoiono, naturalmente cadono, c'è caduta e caduta. Professor Costanzo. Fino a 80-100 capelli al giorno è una caduta normale. Oltre questo limite, però è difficile quantizzare. Certo, perché mettersi a contare i capelli... cade nella patologia. L'altro aspetto è lo spessore del capello, perché è la prima cosa che viene compromessa. I capelli magari non cadono, però iniziano ad assottigliarsi, quindi ciclo dopo ciclo nasce un capello più sottile. E questo può essere causato sia dal problema più comune nell'uomo, che è l'alopecia androgenetica, che è un'alterazione della sensibilità del follicolo pilifero agli ormoni androgeni. Quello che noi chiamiamo generalmente calvizie. Esatto, va quello bene. È il fatto che nel follicolo pilifero dell'uomo ci sono dei recettori molto sensibili agli androgeni e quindi questo provocano un assottigliamento del capello. Quindi possiamo... scusi professore, mi dica. Da carenze, per esempio, la donna che fa una dieta troppo stretta può avere una carenza di ferro e i capelli si assottigliano, oppure da problemi ancora nella donna, spesso è la tiroide, sia l'ipertiroidismo che l'ipotiroidismo indeboliscono i capelli, e questi sono elementi poi facilmente controllabili, quindi il dermatologo li riconosce e basta dare un supplemento di ferro oppure curare la tiroide e i capelli tornano ad essere belli. Allora professore, intanto lei ci ha dato due indicazioni importanti: il numero dei capelli, anche se è difficile mettersi lì a contare quante ne sono cadute sul piatto della doccia, sul lavandino, sul pettine, ma comunque un'idea ce la possiamo fare, e soprattutto anche quando vediamo dei diradamenti nella nostra zona che cambiano da uomo a donna. Voi vi stempiate, vi viene la fronte generosa, a noi la come si dice, la riga, quella dove facciamo la riga, un pochino più larga, è così professore? Quindi... esattamente così, e quello è un'espressione dell'assottigliamento del capello, che può avere, come dicevo, molte cause, non ultime diete particolarmente spinte. Ferro e tiroide possono compromettere, la carenza di ferro e un malfunzionamento della tiroide in eccesso o in difetto possono compromettere la salute dei nostri capelli. E quindi possiamo anche, per fare un test di autovalutazione, fare la prova della coda. Magari chi ha i capelli rasati non può, ma per le donne o gli uomini che hanno i capelli un pochino più lunghi, se facendoci la coda si assottiglia sempre di più, occhio. Vedo che Carmelo mi sta guardando, lui ha la barba. Tra l'altro parleremo anche di barba. Deborah ha fatto delle foto magnifiche, possiamo anticiparlo, a Deborah. Tutti i nostri colleghi qui in redazione che hanno la barba, e tra l'altro proprio stamattina censendoli abbiamo scoperto che ce ne sono tanti e quindi non li avevamo notati. Vogliamo votare il barbuto più carino, più affascinante, brava, la barba più bella di Radio 24. Professore, intanto la saluto, ma domani segni in agenda che ha un altro appuntamento con Cuore Denari. Bene. Perché è arrivata Salute Uomo, la rubrica Il Piccolo Grande Uomo, la richiesta di un ascoltatore che chiede il nostro aiuto per superare un problema molto serio che gli sta rendendo difficile la vita e per il quale chiede se c'è una soluzione. La psoriasi nella zona genitale che sta mettendo in difficoltà e in crisi la sua storia sentimentale. Professor Costanzo, quindi che dire, fissi in agenda, dorma preoccupato e domani la aspettiamo di nuovo a Cuore Denari. Grazie. A domani. Buona giornata. Luca, torniamo ai nostri capelli. Carenze dietetiche, squilibri alimentari, stress, inquinamento, consumo anche di alcolici, anche il fumo fa malissimo per i capelli. Certo. Quali altri fattori possono in qualche modo compromettere la salute e di conseguenza anche la bellezza dei nostri capelli, che appaiono magari poco lucidi, opachi, elettrici, stanchi, insomma, stressati, come Ma noi? Guarda, alle volte quando parliamo con i nostri clienti ci rendiamo conto che ancora troppo spesso vengono sottovalutate alcune cattive abitudini, tipo passarsi il phon con la spazzola troppo spesso e ripetutamente sui capelli, che chiaramente il calore non è amico del capello, così come la piastra, che sono degli attrezzi, insomma degli strumenti eccezionali, ma vanno usati nella giusta maniera. E alle volte invece non c'è, giustamente, perché chiaramente è un lavoro utilizzare determinati strumenti, non c'è la giusta educazione, per cui magari bisognerebbe semplicemente chiedere al proprio parrucchiere, ad esempio, come la piastra. Ma adesso meglio la piastra, io ho passato degli anni di piastra perché naturalmente mia figlia era riccia, voleva lisci. Adesso l'abbiamo superato perché da un messaggio alle mamme poi si supera. Il problema è bisogna farla però con passarla con i capelli asciutti e mai bagnati perché li friggi. Sì, i capelli devono essere assolutamente asciutti. Poi sarebbe meglio, ma mi rendo conto che per uso domestico diventa già più complicato, sarebbe meglio che prima di passare la piastra i capelli venissero asciugati con le setole della spazzola, perché così si chiudono le cuticole, che è la protezione del capello, quella che è responsabile, le squame, insomma, no? Che sono responsabili della lucentezza del capello, e di conseguenza la piastra scivola più delicatamente e tutto va bene. Altrimenti cosa succede? Succede spesso, no? Passeggiando per non per guardare Milano. Però i nostri, però perché ci punta. Anch'io sono meravigliosi. Mi sento tanto presa di mira stamattina. Guarda, mettiamoci una cuffietta. Mamma che così mia, guarda. Io mi metto. Adesso mi rado a zero quando vado a casa. A volte succede magari appunto passeggiando per Milano e mia moglie che fa il mio stesso mestiere, insomma lavora insieme a me, che ci consultiamo insomma perché vediamo teste no? Belle, apparentemente belle, ma dove è evidente che si sono asciugati in qualche modo i capelli, si è passata la piastra e la piastra li ha sì lisciati, ma anche, come posso dire, fermato, immobilizzato tutte le doppie punte, cioè senza un ordine ben preciso. Semplicemente è come se tu andassi a stirare, no, un abito che è spiegazzato senza prima tirarlo, per cui fissi le pieghe, ma non è, come ottimo, dire, ottimo parallelo, esatto, per capire. Poi per chi non è del mestiere può andare comunque bene, certo, però non è il massimo. Allora parleremo anche, adesso arriva l'estate, noi facciamo questa puntata perché puntualmente in autunno quando andiamo dal parrucchiere o ci vediamo con i capelli brutti davanti, ma è stata l'estate, i capelli sono stati aggrediti dai raggi solari, lavaggi troppo frequenti, il sole eccetera, me lo doveva dire prima, ve lo diciamo ora, ditecelo ora che cosa dobbiamo fare, certo, per portare i nostri capelli a posto in estate e poi per ritornare a casa possibilmente con i capelli in testa belli e sani. Intanto, se come anticipato da Deborah, su Facebook abbiamo pubblicato le foto dei nostri barbuti, perché noi faremo, come si bisogna fare così, barba e capelli, non solamente capelli. Intanto 800 24 00 24 Giordana ci chiama da Biella. Buongiorno. Senta, volevo chiedere una cosa, come mai io non ho mai trovato uno shampoo che sia contemporaneamente efficace su punte e cuoio capelluto? Ecco, non l'hanno ancora inventato, Luca. Bisogna inventarlo, inventiamolo noi a cuore denari. Un'idea imprenditoriale stamattina. Sì. Sì, sì, ma intanto dipende dal tipo di problematica che presenta il cuoio capelluto dell'ascoltatrice e i capelli, perché sono due cose differenti. Perché se, come immagino, i capelli magari sono colorati o sono trattati chimicamente, colpi di sole, chatouche e via discorrendo, devono essere trattati in un modo, diversamente la cute con shampoo specifici. Sì, con shampoo specifici, ma soprattutto con conditioner o con dopo shampoo, no? Che non vanno risciacquati, che sono fatti per rigenerare il capello, che possono essere a base di cheratina piuttosto che oli sintetici o naturali, estratti e via discorrendo, ed è una cosa a parte, per cui la cute è una cosa, il capello, lo stelo è un'altra cosa. Diversamente, se non sono trattati chimicamente, se non hanno subito dei trattamenti, di solito ci sono degli shampoo. Gli shampoo vanno bene sia per la cute che per i capelli. Mi viene da pensare, no? Vado per deduzione, che magari non vengono tagliati opportunamente questi capelli. E allora, se fossero naturali, no? Sì. E presentano delle problematiche che lo shampoo non risolve, è perché probabilmente manca il taglio. Adesso ti devo tagliare perché c'è il GR, ma noi ritorniamo anche coi barbuti. A tra poco. Che noia, che barba, che barba, che noia, che noia, che barba, che barba, che noia. Musei a cielo aperto, gioielli dell'arte e della natura da vivere, ma anche da preservare. Da Firenze a Venezia, da Roma alle Cinque Terre, ci si interroga. Come conciliare il turismo di massa con il decoro e la sicurezza del territorio e delle opere d'arte? Venezia pensa al numero chiuso, Firenze bagna le strade. E gli altri nel mondo, che fanno? Un viaggio tra arte, natura e rispetto, in onda fino al 30 giugno nel GR delle 7. E un reportage dedicato sabato 1 luglio alle 7.15 su Radio 24 e su radio24.it. Cuore e denari. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne, ragazzi, vecchie fanciulle, qua la parrucca, presto la barba, qua la sanguigna, presto il biglietto. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, qua la parrucca, presto la barba, presto il biglietto. E Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro. Barba e capelli, adesso investiamo nella nostra immagine. Oggi per sederci, Deborah, belli, ordinati e pettinati alla nostra scuola di risparmio di giovedì. Brava, ottima. E' spuntato anche un altro uomo qua, possiamo dirlo? Senza barba però, per cui non lo possiamo fotografare, ma va bene lo stesso. Ma ne abbiamo anche un altro. Un sacco, sì. In linea, è Luigi Sutera, consulente d'immagine, penna del Daily Lab, ma che ormai è stato soprannominato l'artista dello specchio, che ha fatto impazzire Instagram. Benvenuto a Luigi Sutera. Ma buongiorno a tutti, buongiorno. Ciao. Artista dello specchio, perché tu fotografi la realtà riflessa da uno specchio e le due mani che lo sorreggono sono diventate quasi un marchio di fabbrica. Allora, le mani non sono le mie, qualcuno mi chiede ma come fai a tenere lo specchio in mano e poi a fotografarlo? Le mani sono di Totema, Chiocciola Bassa, diciamolo pure, beh, giusto così, mentre io faccio le foto. Che è una passione, perché stavamo parlando con Luca Veltri, sì. Lui di professione fa il parrucchiere, sì. E però ha questa seconda passione che ha coltivato, che è la scrittura. Infatti scrive storie ambientate a Milano. Anche tu ti sei stato folgorato sulla via di Damasco Instagram ti ha catturato e ti ha catturato anche il mondo della fotografia. E il fatto che tu sia un consulente d'immagine molto probabilmente ti ha aiutato. Credo di sì, l'immagine, tutto quello che ha a che fare col bello ha sempre fatto parte, credo, della mia vita. Lo specchio aggiunge qualcosa, perché in realtà lo specchio permette di vedere quello che l'occhio non potrebbe nello stesso momento. Faccio un esempio che ormai è un classico per me, a me piace moltissimo, vado in galleria Vittorio Emanuele a Milano, punto l'obiettivo ad esempio su Piazza San Babila e nello specchio c'è riflesso e quindi si vede contemporaneamente il museo del Novecento. Questo è uno degli esempi classici, quindi la percezione doppia è come se avessimo gli occhi anche dietro la testa, è una frase poco felice, però il concetto è un po' quello. Senti Luigi, io ho detto sei l'artista che ha fatto impazzire Instagram. Adesso perché però sei, non esagerare, diciamo sei che molto sta, seguito, sta bene, vero? Sta andando bene. Io ho detto a Deborah non ti conosce di persona e allora le ho suggerito di guardare una foto tua, sì, quella con la camicia bagnata. Oh, ma mamma, dico alle ragazze che ci stanno anche ascoltando di buttare l'occhio, ma soprattutto lo dico solo così perché anche lui ha la barba e con te vogliamo parlare di barba. Uno dei post che hai scritto sul Daily Lab ha avuto grandissimo successo, segno che la barba è di moda. Noi abbiamo adesso fotografato grande, sì, i nostri barbuti, ma non è per tutti la barba. Ma la barba non è per tutti, come le tendenze non sono per tutti. Spesso si tende a credere che se qualcosa, tra virgolette, va, se qualcosa è ripetutamente proposta, debba star bene a tutti. In realtà non è così. Le proposte, lo dico sempre, vanno adeguate a quello che siamo. Per quel che mi riguarda, io ho fatto crescere la barba, l'ho scritto, come dicevi prima tu, 2 anni fa, ho fatto crescere la barba, e la cosa fantastica che a me è successo con la barba è che non mi ha coperto, mi ha quasi spogliato. Nel senso che meno male che a noi la barba non cresce, qualche baffetto a me sì. Ma smettila questa storia dei baffi, no, guarda, non apriamo il tema cerette, perché qua è un altro ci capitolo sono, eh. Ci sono, scusa, ci sono anche le cerette per i baffetti, vero Luca? Altro che, sì, certo. Lo chiedono, ma adesso tu lo guarda, sappiamo, tutte Frida le donne, Kahlo, è brava, certo. E quindi ti ha spogliato questa barba? Assolutamente sì, spero in maniera gradevole. Diciamo che è diventata un'estensione di me. La cosa che suggerisco sempre quando decidiamo di apportare una modifica, tra virgolette, o comunque di scegliamo altre maniere di proporci, dico sempre devono essere estensione di quello che siamo, non devono essere aggiunte. È un concetto un po' complesso, però in realtà è semplicissimo. Allora, intanto noi abbiamo fatto una sorta di gara delle barbe di Radio 24 e in testa Carlo Genta, segue Danilo. Non possiamo mettere anche le barbe tue e di Luca Veltri, perché non siete di Radio 24, anche se amici cari di cuore e denari. Un consiglio per i barbuti, Luigi, prima di salutarci. Un consiglio per i barbuti è tenerla in ordine, perché può anche rendere molto disordinati la barba. E poi soprattutto lavarla. Bravo. È semplicissimo, fai la doccia, lavi i capelli e lavi la barba. Bravo. Magari aggiungi anche un olietto, che non è male, la rende un po' più lucida, un olietto che sia di quelli asciutti, perché se succede di baciare qualcuno per strada non è il massimo lasciare l'unto che i peli possono trasferire sulla faccia. Quindi insomma, vabbè. Luca, certo, vuoi aggiungere qualcosa anche tu che sei barbuto e barba e capelli? No, guarda, io sono assolutamente d'accordo con Luigi riguardo le tendenze che non sono per tutti, nel senso che banalmente, come si dice, le cose bisogna saperle portare, nel senso che bisogna sentirle, no? E alle volte non capita sempre. E anch'io da un annetto porto la barba e devo dire che mi sono d'accordo assolutamente con lui. Sì, allora, sì. Un e aiuto. Poi è comoda, non dimentichiamoci che è comoda. Perché... È per voi, sì. Ci guadagniamo anche noi donne, così state meno in bagno, oppure a darvi l'olietto, a pettinarvi, eccetera. Ci non guadagniamo lo so. Esteticamente perché ci piacciono anche, dai. Vabbè. Allora, vi prego aiuto, 24 anni, vorrei la barba, Stefano che ci scrive, non so Daniela, ma ne ho pochissima, allora non farla crescere, dico io. Certo, io sottoscrivo, certo. Assolutamente d'accordo. No, no. Ci saranno altri modi per rendere la sua immagine speciale, la barba non è sicuramente, non fa parte del pacchetto, secondo me. Luigi, per seguirti su Instagram? Luigi Sutera 12. E poi potete leggerlo anche sul nostro Daily Lab, intanto potete vederlo e seguirlo, come potete seguire anche Luca Veltri, perché ormai bisogna sempre, anche per questi lavori e soprattutto per questi lavori, avere, no, i social. I social, sì sì, assolutamente. Che... Quanto siete social. Quanto siamo social, o per sì o per forza bisogna esserlo, sì. Allora, barba e capelli. Dopo che sono stati qui da noi questa mattina, barba e capelli. Luigi, devi venire qui. Esatto, vieni a trovarci. Vieni a, così ti spaventiamo un po'. E un ascoltatore mi scrive: peluria, labbro superiore, non baffetti. È vero, peluria, quella peluria che ha anche il suo bello. Donna baffuta, sempre piaciuta. Ma non tanto. Oddio. Grazie a Luca Veltri. Grazie a voi. Stai scrivendo un altro libro? No, adesso sono in tour con questo, con Hotel Flora. Va bene, allora un giorno poi ce la racconti. Ma hai visto la t-shirt che indossa oggi con le forbicine qua del parrucchiere? Ma chi ti porta? Ma chi ti porta? Facebook magari non lo vedono le nostre amiche, ma è una magliettina molto molto carina. Sì, sul barbiere, sull'arte del barbiere. Molto bella, e poi sei stato molto carino a non infierire su me, Deborah. Esatto. No, guai. Bravo, veramente un gentiluomo. Ci pensiamo da sole. Grazie Luca. Grazie a voi. A presto. Allora, facciamo serie, ci sediamo pettinata. Sui banchi di scuola. No, dai, allora, sai, io dovrei anche un pochino magari parlare stamattina di Wall Street. Wall Street, America, i capelli di Donald Trump. Per carità, che poi alcuni ascoltatori ci bacchettano. Offendono, appena diciamo che. Dai, ma è stato Donald detto di tutto. La bananona, cose si offendono. Vabbè, ma c'è pure chi ha detto che c'è il gatto morto sulla testa, dai. Hanno detto di tutto, e vabbè, è chiaro che la vittima è fin troppo facile da essere colpita. Comunque, lasciamo da parte tutto questo folklore e andiamo al nostro tema del giovedì. Sta finendo giugno, siamo ormai in grado di stilare un bilancio, magari lo faremo domani sera, dopo le 18, di questo primo semestre 2017, che per i mercati finanziari è stato quasi esclusivamente concentrato sulle iniziative delle banche centrali e sul tema della stretta relazione fra appuntamenti politici e quadro economico. Naturalmente questa relazione rimane ancora molto stretta, se ne parla per una parrucchiere, Nicoletta. Eh sì, ma guarda che si parla di tutto. Le riviste di gossip ormai hanno lasciato il posto al Sole 24 Ore alle riviste finanziarie, e però insomma questa relazione dovrà essere ancora il focus dei prossimi mesi, a partire da settembre, da quando ci saranno le elezioni tedesche. La politica ci ha fatto però trascurare altri temi importanti che hanno viaggiato di pari passo ad essa, ma sono finiti un po' in secondo piano, pur essendo temi di primaria importanza per chi guarda ai mercati con occhio globale, come dovrebbe essere. Quindi oggi, per la nostra scuola di risparmio e di investimenti, capovolgiamo la frittata, cominciando da alcuni argomenti che solitamente trattiamo a latere. Oggi focus sulle materie prime e poi sui mercati emergenti. Investire informati. Dopo aver esaminato le stime giunteci dai vari stati produttori di arance, abbiamo tratto la seguente conclusione. L'inverno rigido non sembra aver compromesso il raccolto delle arance. Non potevamo non ritirare fuori dal nostro archivio il pezzo del film Una poltrona per due, la speculazione sui futures del succo d'arancia. Se parliamo di materie prime, però, è il petrolio ad averci dato sicuramente molti spunti nelle ultime settimane, ma non possiamo poi certo dimenticarci del bene rifugio per eccellenza, l'oro. E poi non possiamo non fare un commento sulle cosiddette soft commodities. Ma quante ne so oggi? Mamma mia! Che sono le materie deperibili come il cotone, il caffè, lo zucchero, il succo d'arancia, il legname, i cereali. Temi di investimento molto rilevanti, ai quali però ci si rivolge sempre con un po' di distacco. Di certo perché hanno dinamiche non semplici da comprendere, poi perché il loro andamento dipende da tanti altri fattori, dallo stato di salute delle economie, dallo stato di salute di economie che sono un po' distanti dalla nostra, dal clima, dalle valute. Quindi dobbiamo conoscere il quadro complessivo di riferimento. Stamattina ci aiuta Lorenzo Portelli, Senior Asset Allocation Analyst di Pioneer Investment. La dico una volta la carica, poi non la dico più, lo sappia. Uomo avvisato, Portelli avvisato, Portelli salvato. Benvenuto intanto. Buongiorno a tutti. Alla nostra scuola di risparmio, al nostro giovedì dedicato ad investire informati. Ovviamente li sentiamo i nostri ascoltatori. Ma cosa certo, dici? all'800 24 0024, oppure al 349 238 6666. Siamo in diretta Facebook, per cui potete anche scrivere messaggi che noi infatti opportunamente leggeremo e sottoporremo al nostro esperto. Anche perché nelle altre puntate, quando parliamo di mercati finanziari in generale, in realtà c'è sempre qualcuno che ci stuzzica e ci dice: ma perché non parlate mai per esempio dell'oro, perché non parlate delle materie prime, tema, investire insomma sui mercati emergenti, quando e come farlo, quando è il momento opportuno. Diciamo che è sempre il momento opportuno per guardare a questi trend che hanno una come dire, direzione di crescita molto lunga. Detto questo, però, questo è il nostro preambolo. Portelli, prima di andare all'esame dei singoli settori, parlando di materie prime, secondo lei in termini generali rappresentano un valido tema di investimento anche per un piccolo risparmiatore? Secondo noi sì, in quanto l'universo delle materie prime è così vasto e eterogeneo che potrei dire che ve n'è una per ogni stagione, quindi per ogni fase del ciclo economico, ma anche per ogni fase di appetito per il rischio. Accennato prima beni rifugio, che sono chiaramente delle materie prime che vanno alla grande in momenti in cui c'è molta incertezza sull'economia, ma anche sulla valuta, sulle valute in generale. Però ci sono le materie prime, come il settore delle materie prime cicliche o anche il petrolio, che vanno alla grande in fase di espansione. Quindi, certo, secondo noi ha senso investire nelle materie prime. Dobbiamo tenere in considerazione alcuni aspetti. Il primo è che sono parecchio volatili. Sono mercati non facilmente accessibili a chiunque o senza troppi costi. Quindi noi preferiamo avere una rotazione sulle materie prime tramite fondi, anche perché veramente ci sono aspetti così particolari che si rischia veramente di prendere delle cantonate. Esattamente, fate molto importanti, anche perché molto spesso le persone ovviamente guardano solo ai momenti positivi e favorevoli per questi mercati, poi sono pronti a cambiare il loro atteggiamento nel giro magari di due giorni, crollano i prezzi, la persona si spaventa, il risparmiatore si spaventa e non sa come recuperare, e quindi insomma bisogna conoscere anche queste dinamiche se uno vuole affacciarsi al settore delle materie prime individualmente senza l'aiuto di un gestore professionale. Sì, la mente umana che ci porta a avere. No, interessante il concetto del ce n'è una per ogni stagione, no? Sì. Adesso chiaramente il petrolio è sempre il nostro tema di riferimento, ma questa che stagione è? Se dovessimo andare un po' a raccontare nel suo complesso il mercato, come si sta muovendo e come si è mosso da inizio anno, insieme al petrolio, tutto il resto, insomma, quali sono state le tendenze più interessanti? Le tendenze più interessanti sono state all'inizio legato più a un discorso di politica fiscale da parte dell'amministrazione negli Stati Uniti, sono state più sulle materie prime cicliche, per esempio rame, alluminio, acciaio, sono andate particolarmente bene in quanto sono le materie prime alla base di qualsiasi costruzione. Certo. Cioè un Quindi ponte si costruisce con questi materiali qua. Che cosa vuol dire esattamente ciclico e anticiclico quando ci riferiamo alla materia prima? E da un punto di vista ciclico si parla di produzione industriale, quindi manufatturiero, economia che va non tanto per servizi, quindi un'economia light, ma un'economia tra virgolette pesante. Quindi quando bisogna costruire palazzi si usano materie prime. Infatti si dicono che le materie prime sono alla base di qualsiasi manufatto e quello ha meno valore aggiunto. Quindi quando l'economia mondiale cresce, come è cresciuta nella prima decade. Quindi segue il ciclo economico praticamente. Le commodity, le materie prime cicliche seguono pari pari il ciclo economico, se è dettato dal manufatturiero. Certo. Questo invece il concetto relativa dell'anticiclico ci fa un esempio? Siamo in grado di... Oro, metalli preziosi sono perfetti per le fasi in cui l'economia è in recessione e soprattutto nelle fasi in cui le politiche monetarie sembrano perdere smalto. E in questa fase, se vi sono anche contesti geopolitici, soprattutto legati al Medio Oriente, anche il petrolio può essere un bene rifugio. Adesso entriamo proprio nel merito, nel campo del petrolio, che è sempre il punto di riferimento, diciamo, quando si guarda al mercato delle materie prime. Sul succo d'arancia abbiamo qualcosa di interessante da dire? No, ma abbiamo tanta carne al fuoco. Abbiamo la carne al fuoco. Oltre alle frittate ne abbiamo anche qualcosa. Che vabbè, che dobbiamo cucinare ovviamente con il gas. E quindi qua vedi che in realtà abbiamo tutto torna. Andiamo in cucina. 800 24 00 24. Intanto continuiamo appunto ad invitare i nostri ascoltatori, se vogliono intervenire nel nostro salotto del giovedì mattina dedicato appunto alla scuola di risparmio. Sono temi, sembra un po' complicati, ma noi cerchiamo naturalmente di renderli leggeri e comprensibili per i nostri ascoltatori, altrimenti continuiamo ancora a lamentarci del fatto che ci sia scarsa educazione finanziaria. Invece bisogna provare anche ad abbassare un po', se vogliamo, il linguaggio, no? Renderlo più abbordabile per tutte le persone che ci ascoltano, anche quando ci addentriamo in dinamiche un po' complicate come quella che riguarda, dottor Portelli, il petrolio. Oggi le quotazioni sono ben al di sotto dei $50 al barile. Vado a dare un attimo un'occhiata per vedere stamattina come si stanno comportando. Il Brent, che è il greggio del Mare del Nord, il greggio di riferimento europeo, è a $47.75 al barile, il WTI americano è a $45.18. A gennaio eravamo intorno ai $57 per quello americano, intorno ai $58 per quello europeo. Per gran parte dello scorso anno il greggio ha trattato sui $50. Il tema è, grosso tema, che se ne produce troppo rispetto a quello che viene consumato, e quindi qualche mese fa i paesi produttori radunati in seno all'OPEC hanno dovuto accordarsi per ridimensionare i tetti produttivi. Accordo raggiunto con non poche difficoltà. Oggi che situazione abbiamo, Portelli, e cosa ci dobbiamo aspettare per il secondo semestre del 2017? Dobbiamo aspettarci volatilità, perché stiamo parlando di una materia prima che viaggia un 40% di volatilità, quindi questi rimbalzi sono del tutto fisiologici a questa materia prima. Vi è da aggiungere a quello che hai detto un tema interessante, che è quello che secondo noi sta dominando la dinamica del petrolio negli ultimi anni, direi. Non ci sono solo i paesi dell'OPEC, perché con l'avvento di nuove tecnologie c'è stato l'avvento dei produttori, se vogliamo, fai da te. Ci sono delle tecniche di produzione e estrazione del petrolio molto economiche, non serve avere giacimenti ma semplicemente frantumare la roccia. Questo ha creato dei nuovi agenti che agiscono nel mercato. È stata la rivoluzione dello shale gas negli Stati Uniti. L'oil tramite la tecnica del fracking, che è quello di polverizzare la roccia e generare petrolio, non necessariamente di alta qualità, però la produzione è stata invasa, il mercato del petrolio è stato invaso da questi produttori, US, Canada, altri paesi che non compongono cartelli. Quindi in questo momento abbiamo due agenti, uno che ha gestito il prezzo del petrolio in modo dirigistico, esatto. Infatti altri lo agenti, chiamano il cartello dell'OPEC. E altri agenti che agiscono in base al prezzo sul mercato. Che però hanno fatto da agenti disturbatori del mercato, sicuro, diciamo, primario. E infatti anni fa i paesi dell'OPEC, in primis l'Arabia Saudita, ha cercato di estromettere, se vogliamo, questi agenti facendo scendere il prezzo del petrolio. Però diciamo che forse hanno sottostimato il costo di produzione di questo petrolio. Si pensava fosse 60, invece adesso magari 50-55. Livello di equilibrio un po' più quando basso. Quando arriva a 50 la gente inizia a produrre. Infatti negli ultimi mesi la produzione dei paesi non OPEC, quindi diciamo dei produttori fai da te, è aumentata. E questo ha spinto ulteriormente il ribasso. Esatto. Quindi non vediamo dei prezzi del petrolio sopra i 60. Quel mondo lì è difficile che torni nel breve, a meno di fatti imponderabili. Certo, no, esatto, anche perché poi certe aree dove il petrolio si produce in elevata quantità sono sempre un po' tese tra di loro. C'è stata anche tutta la questione legata alla rottura dei rapporti diplomatici con il Qatar, che in realtà lì per lì non ha determinato nessun nervosismo sulle quotazioni del petrolio, ma chissà se questo stato di tensione dovesse permanere per le questioni terroristiche anche internazionali, se non dovesse avere delle ricadute. Fatti che voi naturalmente monitorate molto attentamente, indirettamente lo devono fare anche gli ascoltatori e risparmiatori, che adesso però hanno un appuntamento molto importante con i mercati e con anche mercati con le barbe stamattina di Radio 24. Come sta andando, tra l'altro? Ci sono delle notizie, degli aggiornamenti sul nostro... Per il momento è sul nostro... in testa Carlo Genta ancora, seguito da Danilo, però è tutta da giocare, perché voi mettete mi piace, non, no? Si può puntare anche su un volto sconosciuto. Però hai visto che piacciono quelli un po' più maturi? Perché tutti i ragazzi invece di età più giovane hanno meno consenso fra le nostre ascoltatrici, probabilmente. Vado a raccontare la borsa. Brava. Che meglio va. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Cuore e Denari. Una monetina a te, una monetina pure a te, così fanno tre, una monetina. mattina di questa sera. Eccoci ritrovati in diretta con Investire Informati. Stiamo sorridendo, ancora monitorando il grado di successo riscosso dal nostro sondaggio di questa mattina fra ascoltatori e ascoltatrici. Qual è la barba di Radio 24 che vi piace di più? Come va, Nicoletta? Allora, Carlo Genta primo. Sì. Poi secondo Nespoli, e quindi coinvolgiamo un po' la redazione di Alino. Eccoci. Poi abbiamo Danilo, sì, grande ambito tecnico. Poi abbiamo Poli, che è pari con Danilo, e quindi ci spostiamo sulla zanzara. Poli sulla zanzara. E poi Stefano. E va bene. E Lorenzo Portelli di Pioneer senza barba è il nostro ospite di questa mattina. Ma ce l'aveva? Ce l'avevo 20 anni fa. Davvero? Quindi anche la barba è una cosa ciclica. Porta fortuna ai mercati finanziari. È una cosa ciclica, ha detto. Hai visto? Hai visto? Nel senso che va a seconda del trend economico, la fa crescere o non la fa crescere in relazione. Se la vogliamo vedere come in termini di filosofia, fa Socrate, quindi dà fiducia. Rassicurante. Sei pulita e non un ticcia. Abbiamo capito prima, vero? Allora, noi stavamo affrontando invece il tema delle materie prime come tema di investimento per i nostri ascoltatori che magari vogliono accarezzare l'idea di cogliere qualche opportunità di mercato, sempre raccomandando una grande attenzione all'approccio verso questo segmento, che è molto volatile, delegato a fattori che spesso noi non siamo in grado di controllare. In primo luogo le valute, le condizioni climatiche, oltre che naturalmente le relazioni politiche anche fra i paesi. Abbiamo visto quello che è successo sul petrolio. 800 24 00 24, il numero verde per i vostri interventi. Sul petrolio c'è un ascoltatore, Maurizio, su Facebook, dottor Portelli, che chiede: è vero che quotazioni di petrolio e corona norvegese sono direttamente correlate? Pensi che curiosità hanno i nostri amici? È così? Sono curiosità giuste. È vero, perché il mondo delle valute è un mondo attraverso il quale si possono prendere scommesse sulle materie prime in modo meno costoso. E la corona norvegese è una valuta molto sensibile al prezzo del petrolio, perché la Norvegia è con il mare del nord, esatto, è un produttore molto rilevante. Ma non è solo la corona norvegese. Vi è anche al margine il dollaro canadese. Quando il prezzo del petrolio va su, soprattutto grazie ad aspetti economici, il dollaro canadese in realtà si rafforza rispetto al dollaro statunitense, mentre la valuta, il dollaro australiano, è molto legata alle materie prime cicliche, quelle più base metal, metalli industriali. Invece il dollaro neozelandese è legato alle materie prime agricole. Ah, insomma, hai visto quante tendenze interessanti. A proposito del dollaro canadese, c'è un ascoltatore che scrive, salutando entrambe, allora, e salutando anche, buongiorno dottor Portelli, dice: siete sempre chiari in riferimento ai cosiddetti beni rifugio, materie prime, mercati emergenti. Di recente mi stavo interessando ad investimenti in valuta estera, in dollari canadesi per l'appunto. Da sempre paese esportatore di materie prime, dalla politica e dall'economia stabile, e naturalmente esportatore di petrolio. Che cosa ne pensa di questa prospettiva di investimento del nostro ascoltatore? Senza poter dare naturalmente suggerimenti del dire sì, no. Ecco, voi che tipo di studio potete indicare al nostro ascoltatore di fare per valutare o meno l'opportunità di investimento? Il dollaro canadese è legato al petrolio. Quindi se vediamo un prezzo del petrolio che sale per motivi di geopolitici, di tensione, diciamo, Medio Oriente o comunque questioni legate al Medio Oriente, il dollaro canadese può essere una valuta che si apprezza. Vi è da considerare però che di solito il dollaro canadese si apprezza anche quando ci sono delle sorprese in termini economici a rialzo. Quando l'economia, per esempio l'economia statunitense, va bene, una delle trade che si fa più spesso è quella di comprare il dollaro canadese e vendere il dollaro statunitense. Ah sì? Sì, quindi in realtà, come sempre nelle valute, ci sono tante cose. Se si vuole giocare il tema petrolio, rialzo, dollaro canadese può andare. Però non dobbiamo dimenticarci anche altre componenti. Per esempio? Per esempio, se l'economia americana ultimamente ha un po' disatteso e continua a disattendere ancora di più, magari ci sono degli indicatori economici globali non troppo a favore di una ripresa economica globale vigorosa, il dollaro canadese è cosiddetto una valuta che comunque ha un beta un pochino alto, non è la valuta bene rifugio come lo yen, certo. Per intenderci. Perfetto. Allora, prendiamo adesso una pausa dell'intervista con Lorenzo Portelli. Perché? Perché dopo la grande corsa scattata all'indomani delle elezioni di Donald Trump, per gli listini mondiali, ritornando un po' ai mercati finanziari globali e alle borse, si stanno moltiplicando, almeno a giudicare da qualche analisi, i segnali preoccupanti. Cosa potrà accadere nei prossimi mesi? Sapete che ogni tanto noi interpelliamo il nostro inviato speciale nel mondo delle curiosità finanziarie, il nostro Enrico Marro, collega della redazione online del Sole 24 ore, ha individuato 7 indicatori da tenere sotto controllo, lo ha fatto insieme agli esperti di IG Market, ecco una sintesi di Enrico Marro. Dopo la grande corsa scattata all'indomani dell'elezione di Trump, per i listini mondiali si stanno moltiplicando i segnali preoccupanti. Che cosa accadrà nei mesi estivi? Ecco 7 segnali, 7 indicatori da monitorare per non farsi cogliere impreparati. Il primo è il petrolio. Bisogna cercare di capire come si comporterà l'oro nero, perché la materia più importante, la materia prima più importante al mondo, rimane sotto pressione e ha appena chiuso la 5ª settimana di fila di calo. Cosa che non accadeva dall'agosto del 2015. Inoltre dai massimi di febbraio la discesa ormai supera il 22% e i timori di un eccesso di offerta ora sono alimentati non solo dalla crescita della produzione ma anche da un calo della domanda in paesi chiave come la Cina, il primo importatore al mondo di greggio. Secondo indicatore, attenzione alle aspettative di inflazione. Il calo del greggio ha infatti un'importante conseguenza. Spinge gli operatori a ricalibrare le aspettative inflattive di medio lungo periodo, condizionando le curve dei tassi di interesse di molti paesi. Terzo indicatore è quello costituito dal Citigroup Economic Surprise Index. È un indice particolare che misura le sorprese positive o negative dei principali indicatori macroeconomici rispetto alle attese di mercato. L'indice, che aveva ingranato la quarta dopo l'elezione di Trump, negli ultimi mesi ha evidenziato un grande calo, arrivando ai minimi dal 2011, in particolare proprio negli Stati Uniti. Un altro termometro importante è quello del rapporto prezzo-utili, in particolare nella versione degli utili stimati, quelli che si definiscono forward. Se le condizioni dovessero peggiorare, potrebbe scendere e allinearsi a aspettative di crescita degli utili più bassi. Quinto indicatore, il progressivo indebolimento di Donald Trump. Le attuali quotazioni di borsa scontano infatti l'effetto positivo di misure promesse dal presidente americano, che potrebbero però nella realtà incontrare molte più difficoltà di quanto previsto. Sul fronte valutario, un indicatore molto interessante è il cambio dollaro-yen, sceso dai picchi di dicembre scorso. Era 118,5 più per effetto delle incertezze arrivate sul fronte statunitense che non da una reale presenza di avversione al rischio. Se dovesse scendere al di sotto di un livello 100, anche una soglia psicologica, il segnale sarebbe preoccupante. Infine, settimo indicatore, l'oro. Il metallo prezioso è tornato in auge da inizio anno, ma solo in parte per la debolezza del dollaro. I gestori stanno tornando ad acquistarlo anche in ottica prudenziale. Il livello chiave da monitorare in questo caso per loro è 1.300 dollari l'oncia, oltre il quale la corsa verso i beni rifugio si accentuerebbe. Lorenzo Portelli, che ne pensa di questa analisi? Concorda con questi fattori di rischio per i mercati? Ce n'è qualcuno che la convince di più, qualcuno meno? No, siamo d'accordo, su cose che monitoriamo anche noi e quest'estate bisognerà tenerle ben monitorati. Aggiungerei un aspetto però che spesso ci dimentichiamo di dire e soprattutto di monitorare. Questi rischi non sono scorrelati fra loro, cioè questi sono rischi che sono molto legati fra loro. Il prezzo del petrolio che scende crea sicuramente aspettative di inflazione più basse, aumentando la difficoltà delle banche centrali ad attuare politiche inflattive, perché in questo momento noi vogliamo scappare dalla deflazione, vogliamo in questo momento inflazione per una serie di motivi che non possiamo trattare oggi. però non crea solo un discorso di aspettative sul prezzo del petrolio, ma un prezzo del petrolio, come si diceva prima, non è solo i paesi del cartello. Ci sono tanti paesi, quei produttori fai da te, che non è che hanno tanti soldi per intraprendere queste attività, ma li hanno dovuti chiedere, indebitandosi e mettendo dei titoli cosiddetti corporate. Infatti, lo scenario di aumento dei tassi di interesse è particolarmente preoccupante se la politica monetaria restrittiva è molto rigida. Non solo, ma anche un prezzo del petrolio particolarmente basso genera perdite a questi imprenditori fai da te, generando perdite per le banche. Ecco, avete capito perché quando si accarezza l'idea di investire su questi mercati bisogna conoscerli e seguirli con grande cura, per cui è meglio lasciar fare magari ad un investitore professionale. Detto questo, una piccola porzioncina sui mercati emergenti e sulle materie prime forse vale la pena appunto metterla, se non altro perché magari compensa investimenti in aree più tradizionali e che magari non generano rendimenti eccezionali. Ci dobbiamo fermare perché c'è il traffico, è tardissimo, poi una piccola analisi su l'oro la facciamo perché gli ascoltatori ce la chiedono, così come c'è un ascoltatore che vorrebbe avere delucidazioni sul settore delle materie prime agricole. E poi qua la puntata è quasi finita, quindi Portelli dovrà ritornare magari con la barba presto. A tra poco. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. bredaportoni.com vi presenta Cuore e Denari. Avevamo preparato il domandone, gli ascoltatori lo aspettano sempre, noi lo facciamo. Certo. Tornate un po' indietro di qualche anno, non di tanti anni. Allora, sapete qual è stato e quando è stato raggiunto il massimo storico della quotazione del petrolio? 800 24 00 24. È facile perché lui la sa. Adesso me la faccio suggerire, poi vi faccio dei segni. Ti mando un libro poi di Cuore e Denari. Cosa lo vuoi, di cuore o di denari? Di denari. Va bene. Allora, il numero verde per rispondere al domandone, ma anche per continuare con i vostri interventi in diretta. Allora, prima di andare al tema oro, sentiamo anche Walter da Pesaro, perché aspetta lì da un pochino. Il nostro ascoltatore, il marchigiano. Vuoi far aspettare una di Pesaro? Il marchigiano ha sempre la porta aperta. Walter, buongiorno. Buongiorno. Dunque, fra le agricole ci sono talmente produzioni vicine ai costi di produzione, quindi con potenziale riassesta? Ah, materie prime agricole. Walter, la sentiamo malissimo, sì, però caverna, andiamo... anche lui. Esatto, guarda, questi telefoni non lo so. Dobbiamo puntare sulle telecomunicazioni, quindi... O dobbiamo farci fare una bella visitina anche noi, esatto, magari infatti. Siamo noi che... Portelli, allora, materie prime agricole è un tema molto importante perché ci sono tanti paesi nel mondo che ne consumano tantissime, e a partire dalla Cina, che sta modificando il proprio modello di sviluppo e quindi ne importa molte, e altri paesi che ne producono, e naturalmente quando le condizioni climatiche sono avverse questi paesi si trovano in grande difficoltà. Questi sono i due grandi macro temi di questo ambito. Poi che cos'altro ci racconta questo settore? È un settore complicato, fatto di gente esperta, e ogni materia prima agricola ha la sua storia. Per esempio, noi sappiamo un aneddoto sulla Cina: importa materie prime agricole, però fu la causa anni fa della crisi e dell'aumento del prezzo del pinolo, perché ci fu un'epidemia in Cina, perché è uno dei più grandi esportatori di pinolo. Quindi, ma davvero? Quindi, sì, ma c'è che non si finisce mai di imparare, ma questa veramente non la sapevo, Nicoletta. Cioè, fondamentali qua... per il pesto. Infatti, esatto, tra infatti ci furono degli articoli che parlavano delle trofie al pesto. Vedi? Quasi come i tagliolini al tartufo. Ma senti, ma guarda come sono intelligente, subito ho detto il pesto. Ma questa del pinolo cinese proprio mi era completamente sfuggita. Non fare il pinolo cinese. Quindi non è solo un discorso di condizioni climatiche che cambiano, ma purtroppo lo sappiamo anche noi in Puglia, ci sono anche degli aspetti di epidemie da tenere in considerazione. Quindi è un mercato molto difficile, a sé stante, su ogni materia, su ogni bene agricolo, e soprattutto ha un costo di produzione così volatile che è difficile avere dei livelli stabili di costo di produzione. Però dobbiamo tenere in considerazione dei temi non di poco conto, soprattutto per il piccolo risparmiatore che ha in mente di preservare il potere d'acquisto. Le materie prime agricole sono quelle che nel rialzo incontrollato creano l'inflazione più odiosa, che è quella da beni alimentari, di stretta necessità. il fatto di investire su queste materie prime può compensare il potere di acquisto che si perde con l'aumento delle derrate agricole. Quindi è un tema che si decorrela dagli aspetti di economia ciclica che abbiamo detto prima, come il prezzo del petrolio o l'acciaio e così via. Quindi ha senso tenere i portafogli. In più, questo con una logica di investimento a lungo termine, oltre al tema che vi è una domanda crescente, perché non solo da un punto di vista demografico aumenta il numero della popolazione, ma forse una fetta, si spera, nei prossimi anni una fetta possa partecipare a un'alimentazione più ricca, equilibrata in giro per il mondo nei paesi emergenti. Quindi questo dovrebbe portare una pressione sulla domanda. Ma vi è anche un altro tema, che in questo momento le materie prime agricole non hanno fatto rally a livello generale come quelle altre. Quindi in teoria ed era un rally che vi aspettavate in qualche modo, dati i fattori economici internazionali che comunque sono proiettati verso una crescita, poi non si sa magari quanto sostenuta, che ogni tanto avrà qualche battuta d'arresto, ma tutto sommato c'è una prospettiva positiva di crescita mondiale. Sì. Scordiamoci il boom delle materie prime dei primi anni di questo secolo. È stato trainato dalla Cina, dall'economia manufatturiera cinese, ma quel sistema di produzione, diciamo di crescita economica cinese, si sta ribilanciando su altri, quindi non abbiamo quelle forze dietro. E avevamo però in mente un rimbalzo delle materie prime, perché lo scompenso dovuto alla crisi dei paesi emergenti, la stabilizzazione della Cina, tra domanda e offerta si era chiuso. Quindi in questo momento paradossalmente le forze di crescita economica sono meno vigorose di 10 anni fa, mettiamo, pre-crisi. Poi da un punto di vista ciclico di scorte, il mercato delle materie prime è più in equilibrio. Senta, qua dobbiamo andare ad indicazioni pratiche per i nostri ascoltatori. Lo so che avevamo in programma di affrontare l'andamento della Cina, anche se un po' per la tangente abbiamo toccato questo argomento, ma faremo una puntata specificatamente dedicata alle aree emergenti, ai nuovi mercati emergenti, ai mercati di frontiera, perché c'è tutta un'altra parte del mondo che sta prendendo a crescere, a decollare, e che dovremo tenere sotto osservazione. Ma per investire nel mondo delle materie prime, dottor Portelli, è chiaro che è bene non fare da soli, non si può investire direttamente sui futures, perché non ce la facciamo, è complicato, bisogna essere degli operatori professionali su determinate piattaforme, eccetera. Ci sono tanti strumenti di investimento, dai fondi di investimento agli ETC, che sono gli ETF sulle materie prime. Insomma, due dritte dai nostri ascoltatori per operare con serenità su questo mercato e per trarne solamente le opportunità. Noi consigliamo i fondi comuni di investimento che hanno una gestione attiva, quindi fanno una rotazione delle materie prime. Poi si può prendere, si può sbagliare o meno, però la rotazione, farla con gli ETC da solo è un po' complicato. È complicato, vero? Se qualcuno vuole avere invece un mattoncino nel proprio risparmio investito in materie prime, statico, fisico, magari l'ETC può anche andare, però abbiamo visto che cioè, non sempre anche l'oro fisico è un bel anello di fidanzamento che ci possono regalare, no Nicoletta? Certo, perché no, Carlo certo. Magari ci può pensare a rifarti quello della vostra seconda vita insieme, no? Mettiamo un po' una pulce nell'orecchio. Pierluigi da Milano, veloce, il record del petrolio toccato in tempi recenti, qual è stato e quando? Buongiorno, veloce. 145 luglio 2008. E mi pare proprio di capire che abbia azzeccato, che il libro oggi parte subito all'indirizzo, non deve fare tanta strada perché va qua a Milano. Allora, grazie a Lorenzo Portelli per essere stato con noi. Grazie, torni a voi. Presto a trovarci. Piacere. Tra i tanti temi in programma ne abbiamo anche lasciati per la fuori del pinolo cinese, che ci ha colto di sorpresa, e quindi alla portando prossima una foto con la barba. Bravo, bravo. A domani, buona giornata a tutti. Buongiorno.